Diamo, diamo la parola a Papiano. Lui è l'ultimo. No, ma siccome sta adesso, Mercedes è arrivata giustamente adesso, appena appena. Sì. Non ha fatto neanche il tempo a sedersi, tu hai già tre quarti d'ora che pisoli. Ah, sì, ciao. Come me. Ciao. Buonasera. No, lo devi tenere così, cioè con lo scapestrano non si sente, non piglia. Non so se forse alcuni di voi hanno visto, diciamo, il titolo, diciamo, dell'intervento che dovrei fare io, la Mercedes. Intanto il grande sciamano l'ha fatta apposta, dandoci un tema così, così pesante, così difficile e complesso. Però, insomma, ormai ci tocca sopportarlo. Quindi. Parlando, diciamo, della cultura del noi, la prima cosa che a me viene in mente, quando ero ancora ragazzino, giravo nelle periferie, diciamo, parigina, cercando di capire un po' questa grande metropoli con le sue varie, diciamo, sfumature culturali, addirittura alcuni settori, diciamo, con la cosiddetta cultura ghettizzata. Allora da lì ho cominciato un po' a farci una riflessione. Però venendo in Italia poi dopo, i primi tempi non lo sentivo, però all'inizio degli anni Ottanta era una cosa abbastanza, che era quasi inesistente. Però pian piano, con l'arrivo, diciamo, degli immigrati, ho visto un po' il clima un po' cambiare. Allora da una parte notavo nei discorsi, nel linguaggio, diciamo, della gente, il noi altri e voi altri. Allora, quindi sì, lì cominciava a farci, diciamo, una divisione assai netta, perché questo tipo di noi altri, voi altri, quindi già aveva tracciato una divisione netta. Ma molto spesso quando facevo una domanda sul concetto di voi altri, allora non sono mai riuscito, diciamo, ad avere una risposta soddisfacente, quindi sentivo un po' di tentennamenti, la paura di essere accusati di chissà che, quindi rimane lì. Allora che cosa è rimasto su questa ricerca? Del noi altri, ma il noi anche tentenna a decolare, perché quando due culture o una pluralità di culture convivono, io penso che ci dovrebbe essere una certa apertura per l'altro tipo di cultura. Ciò che in Italia si è trovato, diciamo, in questa situazione impreparata. Quindi l'immigrato in generale, portatore di cultura altra, non ho trovato uno spazio dove poter esprimere oppure interagire, diciamo, con questo fattore culturale. Quindi infatti io molto spesso mi trovavo sempre a dire che l'Italia rischia di perdere il treno europeo. Perché lo dicevo? Perché non c'è stata fino a poco tempo fa una valorizzazione della cultura altra. Era praticamente sconosciuta. A parte delle persone che forse erano interessati, che magari per studio o ricerche sono andati per mezzi propri, cercando di scoprire, diciamo, questa cultura. Ma a livello nazionale, se si guarda bene caso per caso, non c'era questa certa apertura. Allora molto spesso quando ci troviamo nei dibattiti, diciamo, a livello storico, raccontando alcuni fatti, la gente rimane a bocca aperta, perché molto spesso si dicono delle cose che magari non pensavano che fosse in altri paesi una cosa del genere, una potesse esistere, oppure molto spesso io do anche la colpa, diciamo, alla scuola, perché la scuola, che ha il ruolo, diciamo, importante di educazione, e quando si vanno a vedere i libri di testo fino a poco tempo fa, quindi non c'era, diciamo, questa grande ricchezza culturale, se c'è un cattolico mi perdoni, a parte alcuni discorsi che riguardavano la Chiesa. Ma in generale diciamo, per quello che riguarda la cultura altra non c'era un granché. Ultimamente soltanto le cose sono cominciano a cambiare pian piano, ma c'è ancora tanta strada da fare. Ma ritornando proprio a quello che ci riguarda più da vicino, io penso che la storia ci insegna tantissime cose, perché se noi andiamo a guardare bene, perché l'impero del Ghana era un terreno fertile a livello culturale? Perché era una crocevia di tante culture che si incrociavano, che si scontravano, ma interagivano fra di loro. Perché chiaramente quando due tipi di culture completamente diverse, all'inizio non è che ci possa essere, diciamo, questa omogeneità. Per forza all'inizio c'è uno scontro per via di questa novità, della non conoscenza. Però man mano che cominciano a interagire, cominciano a nascere delle cose abbastanza interessanti. E se guardiamo bene quella, la storia di questo paese, che era proprio vicino al cuore dell'Africa centrale, ma lì, diciamo, i berberi che venivano, perché molto spesso quando si parla di berberi si pensa ai berberi provenienti dall'area del Niger, ma i veri berberi, quelli discendenti dai Perl, che sono i nomadi africani, e girano tutta l'Africa. Quindi era una crocevia di tutta una serie di culture all'interno di questo regno. Già noi sappiamo bene che questo regno è nato praticamente nel 950 d.C., quindi in un'epoca molto remota, a parte il fatto di avere già un parlamento, ma avevano un settore che si occupava soltanto della cultura, dello studio della cultura. Poi chiaramente che cosa è successo con l'arrivo degli europei? Tutto si è sgretolato, non lo so. Gli europei, tipi come questo, ovunque vanno tutto si rovina. Per questo lo teniamo qui. Ce l'ho con lui. E quindi lì praticamente questo impero a livello culturale si è completamente sgretolato. La stessa cosa si è ripetuta all'interno dell'impero del Mali. Il Mali sappiamo bene che in tutta l'Africa, diciamo, occidentale è stata la prima città ad avere una università dove insegnavano già tantissime cose, dalla teologia all'architettura. Ma il Mali è un paese che a me piace tantissimo, perché ha una pluralità culturale, cose che nemmeno dalle nostre parti, che pure essendo, diciamo, un paese molto aperto, un paese dove sono passati tantissimi diciamo stranieri portatori di culture, ma non era come il Mali. E già se si guarda all'epoca, quattro città del Mali, che erano Tombouctou, Mopti, Gao e Sikasso, che erano le quattro città più grandi del Mali, praticamente molto distanti tra di loro, ma la cultura, le iniziative culturali che facevano, più che altro per la cultura che veniva al di fuori dei confini del Mali, già all'epoca era talmente diffusa che avevano pensato di creare, diciamo, un dipartimento di studi di cultura altra, l'avevano chiamato loro, di cultura altra. Purtroppo anche lì, quando muoiono gli imperi, tutta una serie di iniziative creati o pensati da questi imperi poi dopo finiscano lì. Questi erano soltanto per darvi alcuni esempi fuori dal territorio, ma ritornando qui per quello che ci riguarda, per quello che ci tocca da vicino, io penso che dobbiamo cominciare un po' a ragionare intorno al concetto proprio di cultura, in un certo senso. Perché che cosa è successo molto spesso? L'immigrato viene visto, specialmente noi proveniamo da paesi poveri, non sapendo praticamente niente di noi, da dove veniamo, della nostra storia, di fattori culturali, molto spesso ci pensano come persone senza cultura. Questo succede molto spesso. Persone che non hanno un passato, tutto basato su una serie di stereotipi che non so nemmeno da dove proviene, diciamo, fino in fondo da dove è nato, diciamo, questa specie di filosofia. E invece io penso che con l'arrivo degli immigrati noi dobbiamo cercare di sfruttare la ricchezza culturale, perché se noi guardiamo bene questo paese, ma forse qui in Toscana, se si guarda bene, una certa cultura è rimasta, della cultura contadina, ma bisogna andare nell'entroterra. Ma ormai in città, nelle grandi metropoli dove viviamo, parte delle persone che forse hanno una certa sensibilità o la vivono, ma la grande maggioranza di tutto quello che riguarda gli aspetti culturali non è che ci sia un grande interesse. E quando io parlo di cultura, perché per me la cultura ci sono diversi rami, perché include anche diversissimi fattori sociali legati alla cultura, alle tradizioni, che ormai l'Europa ha perso. Quindi deve cogliere l'occasione con l'arrivo di questi immigrati per poter, diciamo, rivalorizzare alcune cose che ormai hanno perso. Perché oggi, se si va a parlare con i giovani, ma si nota il vuoto che hanno in testa, mancanza proprio di alcune ideali, di fattori sociali. Io lo vedo tutti i giorni parlando con loro, quindi bisogna però evitare, e lì attiro l'attenzione, il modello alla francese, che è molto pericoloso, che è l'assimilazione. Perché se guardiamo, diciamo, i giovani immigrati, oppure i giovani, diciamo, anche di questo paese, e cerchiamo di fare un paragone con la Francia, si vede proprio la differenza. Perché l'assimilazione è una cosa molto molto pericolosa. E vedo, diciamo, in Francia molte persone che si richiamano alla francité, cercando di adottare il modello francese. Ma che cosa è successo? Guardandoli attentamente, vedi proprio che queste persone vivono una crisi di identità molto molto profonda. Perché chiaramente, non, rinunciando alla tua cultura propria, cercando di utilizzare il modello francese, allora che cosa è successo? Rimarrai sempre immigrato, anche se hai la cittadinanza francese, in una società che cerca sempre di buttarti fuori. Allora si entra in questa proprio famosa crisi di identità. Allora io dico, le culture devono stare insieme e interagire. L'interazione fra le culture. Ad esempio, quando sento questo, il famoso termine che usiamo molto spesso, integrazione, a me mi si rizzano subito i capelli, perché prima di tutto la parola di per sé non mi piace, perché integrare qualcuno in un certo senso anche a volte vuol dire anche sopportarlo. E io non voglio essere sopportato da nessuno. Quindi integrarli, ma in che modo? In che modo devono essere integrati questi nuovi arrivati, questi nuovi compagni di viaggio? Anche lì c'è un grosso punto interrogativo, ma anche se noi andiamo a guardare bene la legge 40, la definizione che danno di questo, sì, è molto marginale, però il succo del problema non è mai stato affrontato alla radice. Si parla di integrazione, ma l'integrazione culturale, a che punto è? Io diverse volte ci siamo fatti questa domanda, ma lì molto spesso ci troviamo a grossissime difficoltà. Però la cosa che a me preoccupa di più, viviamo una zona, una città come Firenze, una città che conosciamo bene il passato storico e culturale, ma è una città molto miope. Perché se si va a parlare col fiorentino e quelli che lavorano nell'ambiente culturale, vedono soltanto quel tipo di cultura che producono, non vedono al di là del loro naso. Non c'è il provincialismo fiorentino, è una cosa allucinante. Sono d'accordo. È una cosa allucinante. E poi si parla di questa famosa cultura, ma è... Poi guardando bene Firenze, è tutto è un giro. Ma anche se si guarda 20 anni fa a Firenze, molte iniziative anche culturali che si facevano, oggi a Firenze non c'è più rimasto niente. A parte i musei, ma anche le iniziative culturali. A Firenze che cosa ci è rimasto? Si pensa soltanto di fare biglietti d'ingresso per entrare in tale museo, organizzare qualche mostra, ma già se si guarda Siena o altre città, cominciano a fare delle iniziative molto più interessanti rispetto a Firenze. Quindi i vari assessorati oppure varie istituzioni che dovevano fare delle campagne di promozione per una certa cultura non fanno veramente niente. Però che cosa è successo molto spesso? Bisogna appoggiarsi ad associazioni di italiani esistenti per poter a volte anche poter fare delle iniziative. Ma io, PAP, da solo, se io cerco di organizzare delle cose, ma non ti guardano nemmeno. E molto spesso allora bisogna usare questi strumenti dell'associazionismo per poter arrivare a organizzare delle cose concrete. Ma io ricordo anche oggi, pian piano stanno cambiando, ma c'è stata una collaborazione di diverse associazioni per la valorizzazione culturale. Ma che cosa è successo? Cercavano di radunare tutta una serie di immigrati provenienti da varie parti del mondo, organizzando delle iniziative. Ma chi organizza una iniziativa culturale? Almeno deve avere una certa idea, una certa conoscenza di questa cultura. Ma io mi rendevo conto che questi qui erano soltanto degli organizzatori, ma in realtà di ciò che organizzavano o sapevano poco o nulla. Allora io penso che dobbiamo reinventarsi delle nuove basi. Delle nuove basi. E io penso che cercare di creare una nuova, attenzione quando dico nuova cultura, non parlo di una nuova cultura universale che è un modello da esplorare.